3, 2, 1. Puntata numero 11 dell'Incredulo, il programma di Radio Big World fatto per quelli come me, quelli che non se la bevano, quelli che leggono solo il Sidereus Nuncius, perché per noi non esiste altro che la scienza, quella con la S maiuscola e con i microscopi minuscoli, perché ora riescano a vedere persino praticamente quasi dentro gli atomi, anche se gli atomi nessuno è riuscito mai a fotografarli, chissà se ci sono. D'altra parte, il metodo scientifico, quello che seguiamo noi, Galileo, non c'entra praticamente niente, perché è stato codificato alla fine dell'Ottocento da quattro scienziati anglosassoni o cosiddetti tali, che non sono neanche troppo noti e tra l'altro erano tutti e quattro occultisti. Pertanto noi ci rivolgiamo anche all'altra parte, a coloro che riescono a guardare oltre alle mura dell'Accademia e riescono a vedere quello che è visibilissimo agli occhi, ma che il prosciutto che ci abbiamo sopra ci impedisce di vedere. Forse è per questo che in alcune religioni il maiale è vietato. Ma ora non parliamo di religioni, non parliamo di mistica, ma parleremo di bodhis, insomma, ci aiuterà Elisa a entrare nel mondo del pensare differente. Elisa! Buongiorno Giorgio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi concluderemo la nostra trilogia sui chakra. Ma come? Ma avevamo detto, facevamo la chimica fisica, ci spiegavi le molecole dei chakra. Ok, d'accordo, questi chakra saranno importanti se così tanta gente li studia e in qualche modo cerca di rimetterli in sesto. Elisa, e allora di quale chakra ci occuperemo oggi? Parleremo degli ultimi tre, quindi i tre superiori. Quinto chakra, Vishuddha o chakra della gola, che come potete immaginare sta fra il collo e la parte della bocca e dietro, quindi sulla parte della nuca. Il suo colore è azzurro. La pietra principale è la solarite, ma tutte le pietre di colore azzurro, quindi lapislazzuli, c'è l'angelite, il calcedonio. A che cosa servirà? È molto facile. Creatività, comunicazione, spiccata percezione estetica, quindi diciamo i bravi artisti, musicisti, servitori dell'arte o dei grandi parlatori hanno questo chakra ben sviluppato. Rappresenta anche la connessione con l'altrove, quindi è essere in comunicazione con dimensioni che superano l'umano. Incredibile, quindi questo è un po' il chakra che permette di far germogliare e rendere rigogliosa la creatività delle persone, che sia fare arte, che sia dipingere o che sia suonare uno strumento, ma anche per esempio cucinare. E per quello che riguarda l'aspetto più propriamente fisico, e cioè la salute, cioè il corpo, questo chakra su che cosa lavora? Lavora su disturbi della gola, orecchie, voce, collo, tensione mascellare, tensione della parte alta del collo e anche da intossicazioni di tipo alimentare, quindi la parte che passa dalla bocca. Questo a livello proprio fisico. Come lo si mantiene libero e funzionante? Ci hai già anticipato il fatto che pietre di colore azzurro permettono già una certa rimessa in sintonia, ma come curarlo ulteriormente? Allora, sciogliendo la parte del collo e delle spalle sicuramente, quindi con esercizi fisici che riguardano quella parte lì. Poi con emissioni canore, quindi cantare oppure leggere, raccontare storie, scrivere, perché anche scrivere è un modo di sviluppare il chakra della gola, tenere un diario in cui si raccontano le nostre cose e fare attività di tipo creative, dal cucinare, come ho detto te, al dipingere, a fare cose a mano, eccetera eccetera. Queste sono le principali modi con cui si tiene attivo il chakra della gola, quindi il chakra della creatività. Pensa te, quindi cantare sotto la doccia non è un'attività da strulli, ma in realtà permette di riallineare questo chakra. Tra l'altro c'era una mia compagna di banco alle superiori che teneva un diario in maniera quasi maniacale e artistica per certi versi, era un capolavoro, e io la prendevo in giro e dicevo: ma guarda, perdi tutto questo tempo, ma ti rendi conto, se te il tempo che tu usassi a fare il diario lo usassi per studiare, saresti la più intelligente del mondo. Fatto sta, come andava a finire? Lei studiava poco e passava a giugno come se non ci fosse un domani, e io studiavo parecchio e bocciavo regolarmente. Pensate, era una questione di chakra. E allora, prendendo l'ascensore, dove si sale ulteriormente? Al chakra del terzo occhio, quindi quello che è posizionato sulla nostra fronte, che si chiama Adigna, il colore è l'indaco. La pietra principale è una pietra a me molto cara, è l'ametista, è una pietra di colore. Ma perché sei della Fiorentina? Non solo perché vivo a Firenze, ma perché secondo me è una pietra veramente dalle molteplici utilizzazioni. È anche una pietra bella da vedere, bella da tenere, purifica l'ambiente, aiuta a dormire bene. È una pietra fantastica, è veramente, ognuno di noi insieme alle lampadine del sale dovrebbe avere un ametista in casa. A che cosa serve il chakra del terzo occhio? È la mente tattica, quindi la parte razionale, ma anche in senso spirituale riesce a donare a noi la fiducia in noi stessi. È il chakra che ci fa vedere, quindi vedere oltre, una sorta di chiaroveggenza, ma non di... Non è che uno legge le carte o guarda nella palla di vetro, insomma. Esatto, non quello, ma di vedere oltre, quindi avere un'idea del futuro, di chi ci sta davanti, un'idea chiara, quindi avere un sesto chakra aperto, quindi un chakra del terzo occhio bello limpido, ci permette in ogni momento di sapere cosa fare e prendere la decisione giusta. E per sbloccare questo chakra che si fa? Capate nel muro? No! Serve stimolare la parte visiva, quindi creazione di arti visive, ma anche la parte un pochino più introspettiva, quindi con la meditazione, lavorare anche tanto sulla memoria, lavorare sui sogni, fare delle visualizzazioni guidate, fare dei collegamenti con immagini e emozioni, quindi tutta quella parte che stimola sia la vista ma anche la comprensione di quello che c'è dietro la vista. Incredibile, mi sarebbe utilissimo averlo attivo, riuscirei finalmente a vedere l'ovvio che spesso non vedo. Da un punto di vista fisico, di nuovo, questo chakra, se è malfunzionante o se non è limpido, che tipo di ripercussioni ha sulla salute e sul corpo? Di solito mal di testa, quindi proprio problemi di emicranie, forti cerchi alla testa, sentirsi come oppressi, bloccati proprio, di quei mal di testa che proprio batteresti davvero le capate nel muro, ma anche problemi di vista, quindi se a un certo momento si comincia a vederci meno, a sentire dolore agli occhi, non vederci da un occhio, oltre a tutte le possibili diagnosi mediche, ci potrebbe essere anche implicato il chakra del terzo occhio. Ma quelle bombe che spaccano lo stomaco e si comprano in farmacia e servono per mandare via il mal di testa, quelle aiutano questo chakra? Cosa ti devo rispondere? La verità è che sì, lo aiutano, nel senso che fanno sparire il sintomo, però non aiutano a liberarsi, aiutano la persona a stare meglio e quindi a credere di stare meglio, ma non sicuramente il chakra del terzo occhio a liberarsi, ecco. e oltre all'ametista e al color viola, chissà, andare allo stadio a Firenze probabilmente è curativo. A parte questo, che altro tipo di soluzioni ci sono per sbloccare questo chakra, per tenerlo pulito? Sicuramente tanta meditazione. Tanta meditazione, tanta introspezione, tanta capacità di sviluppare la mente e di sviluppare il nostro, diciamo, sesto senso, quindi l'intuito, il fidarsi delle proprie percezioni, quello che si dice sentire a pelle, ecco. Tutti questi tipi di pratiche aiutano il sesto chakra a essere sempre aperto e quindi capace di funzionare nel miglior modo possibile. E per quanto riguarda l'ultimo, stavolta dove si situa? Ormai si è finito il corpo a forza di salire. Sopra il cranio, quindi è quello che sarebbe la fontanella per i bambini, poi no, la fontanella ci si chiude, quindi il settimo chakra è proprio al di sopra della nostra testa, tipo aureola. Pensate, quindi non si trova neanche nel corpo? No, non si trova nel corpo. È l'ultimo chakra che sta fra il corpo fisico e il corpo spirituale, aureo, chiamalo come vuoi. Il colore suo è viola, mentre le pietre sono le pietre di solito di colore trasparente, quindi bianco trasparente, come può essere il quarzo di rocca. È ciò che ci collega quindi al nostro divino inteso come spirito in ogni accezione più fisica o religiosa che uno lo voglia interpretare. È il chakra che ci aiuta nell'autorealizzazione, quindi nel capire qual è il nostro scopo su questo mondo. Il settimo chakra non potrà mai essere del tutto chiuso come il primo, cioè sono un po' gli opposti, possono essere un po' più scarichi, ma nessuno dei due può essere del tutto chiuso, perché mancherebbe la nostra esistenza su questa parte della terra. Ma se non è nel corpo, questo significa che non ha ripercussioni sul corpo? Un pochino sì, nel senso che essendo proprio sopra la testa, anche quello è collegato alla parte della testa, quindi emicranei, momenti di perdita di memoria, malattie neurodegenerative, diciamo, vanno un po' a influire su il corretto funzionamento dell'ultimo chakra, così come può essere il coma o tumori al cervello, ecco, fanno sì che questo chakra non funzioni bene. E quindi per evitare questo tipo di disastri, e cioè mantenere buono il funzionamento di questo chakra, che cosa suggerisci di fare? Cercare di essere sempre più in contatto con la nostra parte spirituale, qualsiasi cosa noi crediamo che ci sia al di fuori del nostro corpo, entrare in contatto con questa. Sicuramente la meditazione, anche in questo caso, fa molto bene, quindi dedicarsi a attività di lettura e di pratica di qualsiasi cosa che per noi abbia un livello spirituale, quindi a qualcosa di fuori di noi. Ovviamente se si va a farsi una tacca non è che si vede i chakra, non è che c'è il vortice, non è che se questi chakra sono a posto e ben funzionanti uno, che ne so, cammina sulle nuvole. Pertanto mi domando, un po' da incredulo, come questo non essere visibili dei chakra si collega a ciò che è visibile, al nostro corpo, alla nostra vita. Ci sono tanti modi con cui si può collegare. Ce ne accorgiamo se sappiamo come funzionano i chakra e quindi come lavorano e su quali ambiti agiscono. Ce ne accorgiamo se vediamo qualcosa che cambia in noi, per esempio un non essere ben radicati a terra spesso porta a disastri, ma disastri del tipo avere un incidente, cascare, rovesciare delle cose, perché uno non è nella presenza, non è qui e ora. non riuscire a parlare, non riuscire ad esprimersi, non riuscire a esprimere la propria creatività potrebbe essere un problema del chakra della gola. Avere dei macigni sul cuore, quindi sentirsi un attimo tristi, depressi, anche senza una motivata ragione, ecco, può essere un problema del cuore. Bisogna riuscire un attimo ad andare oltre al sintomo fisico e cercare di capire se è successo qualcosa per cui, per qualche motivo, i miei chakra sono andati un attimo in tilt. Elisa, per la cura dei chakra, per la loro apertura, il loro risveglio, la loro primavera, il loro mantenimento, la loro manutenzione, che cosa ci indichi come migliore? Il fai da te, quindi cominciare a leggere libri, cominciare a seguire qualche conferenza e poi cercare di operare per proprio conto su noi stessi, oppure esistono delle figure, per esempio nella medicina olistica, che in qualche modo aiutano chi si rende conto di avere i chakra fuori posto a rimetterglieli un po' in sesto? Secondo me è sempre meglio partire da qualcuno che fa questo tipo di pratiche, quindi di riequilibrio dei chakra, quindi dal Reiki alla cristalloterapia o qualsiasi altra attività. Quando si inizia a capire un po' come funzionano, come si regolano e quali sono i benefici che si traggono da queste attività, io sono sempre per provarci da soli, perché sono tutti strumenti di autoguarigione, quindi leggersi un libro sui chakra, su come funzionano i chakra, prendere i fiori da soli, oppure online si trovano delle bellissime meditazioni con delle frequenze di musica che vanno ad equilibrare i vari chakra, quindi partendo dalla più tribale, che è quella per il chakra terreno, a quella un po' più spirituale, che è quella per l'ultimo chakra, e anche magari ascoltare quelle, mettendosi lì una mezz'oretta in meditazione, può sicuramente aiutare poi a stare un pochino meglio. E allora abbiamo scoperto oggi che cantare sotto la doccia, fare il sudoku e mettersi a fare il Buddha aiuta tre chakra importanti, importantissimi, di cui uno addirittura è così importante che non lo controlliamo, tanto che è un po' chiuso, è un po' aperto. Io probabilmente ce l'ho particolarmente intasato, mi servirà uno spazzacamino. E allora ringraziamo Elisa, la ringraziamo perché ci ha portati fino a qui, pur noi non credendo a una parola di quello che ci ha detto, però effettivamente ci sono delle volte in cui c'ho degli strani mal di testa, o c'ho delle volte che non mi riesce di parlare, o ci sono delle volte che non mi riesce di esprimermi. Sta a vedere che Elisa ha ragione. Elisa, grazie. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e vi auguro un buon percorso all'interno dei chakra. Olè.